se passasse il DDL e i provvedimenti ad esso collegati, il padre maltrattante avrebbe il diritto di ricorrere alla forza pubblica per far ricondurre a casa un bambino che è dovuto scappare, lasciare la sua abitazione insieme alla mamma e rifugiarsi in una casa rifugio. Quindi questo aspetto è gravissimo. Lo potrebbe fare il padre maltrattante anche solo se sente leso il diritto alla bigenitorialità. Quindi tra le tante cose negative, questa mi sembra la più indicativa di come questo DDL renda impossibile per le donne che sfuggono alla violenza di poterlo fare, intraprendendo una separazione, proteggendosi dalla violenza. È straordinariamente in conflitto con tutto quello che dice la Convenzione di Istanbul, che pure il nostro Stato ha ratificato tra i primi nel 2013, se non ricordo male, perché nel 2014 è entrata in vigore ed è una legge sovranazionale vincolante per i paesi che l'hanno sottoscritta. Quindi ci sono tantissimi aspetti del DDL Pillon che vanno in contrasto a quanto dice la Convenzione di Istanbul, non ultimo il fatto del divieto di mediazione familiare nei casi di violenza domestica, cosa che invece il DDL Pillon obbliga a fare. La mediazione familiare nei casi di violenza è molto rischiosa per le donne perché presuppone che ci sia un conflitto e non una situazione di violenza. Nel conflitto uno può esprimere chiaramente la propria opinione sapendo di avere lo stesso peso. Nella violenza non è così, c'è una disparità di potere e controllo talmente forte che se la donna parla e dice qualsiasi cosa, rischia ancora di più poi quando torna a casa. E dovrebbe tornare a casa, tra l'altro, visto che a questo punto il DDL Pillon impedisce Certo. anche l'accesso alla soluzione abitativa, quindi per tutto il Certo. periodo di mediazione dovrebbe tornare a casa Sì. con l'uomo maltrattante. Teniamo conto che adesso il fatto di subire violenza è giustificato motivo per potersi allontanare dal domicilio familiare, ovviamente, e quindi rifugiarsi in un centro antiviolenza, in una casa rifugio, in altre strutture, da parenti e amici. Ebbene, il DDL Pillon ci dice che perché venga considerata violenza bisogna aspettare i 3 gradi di giudizio, quindi presumibilmente in Italia almeno 8 anni. Quindi la donna deve rimanere lì con un contenzioso giuridico aperto con il maltrattante per 7-8 anni o quello che dura l'iter giudiziario. Noi sappiamo già benissimo che in mancanza di strumenti di protezione, di misure protettive, le donne, se anche hanno fatto la denuncia, poi la ritirano perché vengono ricattate e vengono minacciate o vengono blandite. A volte il maltrattante dice: vabbè, io allora pago l'assegno di mantenimento che il giudice mi ha imposto, tra l'altro, e allora tu ritiri la denuncia, o cose di questo tipo. Quindi le donne vengono ricattate nella fase della separazione, vengono minacciate, vengono indotte a ritirarsi, non solo a ritirare la denuncia, ma a ritirarsi dal sistema d'aiuto. Ci sono dei maltrattanti che addirittura spingono la donna a trasferirsi e a cambiare paese di residenza per staccarla dal sistema d'aiuto quando questo sistema d'aiuto l'ha protetta e ha fatto sì che ha fatto in modo di fermare la violenza che lui ha agito. Quindi i maltrattanti hanno molti strumenti ancora in Italia per continuare a vittimizzare le donne. Sicuramente moltissimo rimane da fare, ma il DDL Pillon mette a rischio tutto quello che è stato fatto in 30 anni a questa parte.